in gergo, è molto molto bravo. Avanti, Fabio. Positivo, positivo. Va bene, dai, io ne approfitto, vi saluto che mi è arrivata la telefonata, Sto uscendo, saluto le belle, Gigino, dai, già ci vediamo settimana se coincide per quella questione che mi hai capito. Saluto le Claudio, dai, magari a più tardi se coincide, Falchetto vi saluta. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Ciao Falchè, dai. È così Claudio, dai, già in quella ragione già ormai sappiamo la data, sappiamo tutto, dai, sapete tutto e già ci vediamo in settimana. Ciao Anto, già ci sentiamo magari più tardi se coincide, dai. Non so se riesco a fare una passeggiatina al fresco o qualcosa del genere, o ci mettiamo a casa, non lo so. Vediamo, ok, ciao, ci sentiamo. Sì, ho 10. Va bene, stavo parlando anche con Antonio, appunto, ma adesso mi avete chiamato, non c'è problema. Tu mi uccidi per quello che abbiamo detto, io vedo di far di tutto questa settimana per farmi vedere, per darti quella cosa là, anche quel microfono, così ti appendi, ti fai la connessione, lo usi lì a casa, tanto lì sempre fermo. Così c'hai il gemello di quello che ho io, sono completamente uguali e lo usi, quello dovrebbe andare molto bene. Ho anche il Saletta e ho lui con la connessione già pronta, quindi puoi provarli tutti e due, quello che va meglio, non ci sono problemi. Quello che mi ha dato tu mi è sempre qua a casa. E ma quello lo sapevo da... non so proprio. Vai tranquillo Claudio, vai tranquillo. Comunque già ci vediamo noi, già te lo sai, è perché siamo intasilati con lavoro eccetera, io ti sento a volte stai rientrando e talmente tardi come sei una tessera, magari sono a casa e o rientrando, non sono a casa, rientrando a 10 io faccio il salto giù a 8, invece poi arrivo a casa a cambiarmi e ti sento che sei ancora nella zona di Campera. Capito? O su 45, o sull'altro giorno ti ho sentito che stavi parlando con Giovannino. È positivo, dai, positivo. Tu sappi, viaggiando come viaggio io, gli amici che ne ho parecchi, ho capito. Ne ho parecchi, te ne renderai conto il giorno, guarda. Qua c'è un Giovannino l'originale, tanta gente che non conosce, vedi, tutti quelli che adesso sicuramente che verranno il giorno lì, da qualcosa lì, tutta gente che io conosco da tanti anni, tu ti puoi immaginare, gente che io conosco da tanti anni, ma li conosco di persona, capito? Non è, invece molti dicono, ma io sono curioso, che io ho sentito nominare, ma non l'ho mai visto. Però io invece sono tutta gente che conosco, capito? Io la mattina è passata, gli ho detto, dovevo andare dove facciamo ogni anno, no? Quel raduno. Invece quest'anno è saltato, per colpa di Giovannino, non ho preparato i biglietti, poi questi biglietti dell'aereo ci sono stati all'arco dell'aria, e allora per andare lì ci volevano questi 300 euro per fare tutte queste cose, allora abbiamo lasciato perdere. E allora ho detto, ma ecco, dovevo andare io, Tommaso e Giovanni. E mi è venuto così questa cosa, da ascoltare. Ormai che è saltato questo, se lo organizziamo qua in Sardegna, lo mandiamo, ci ho fatto un giro di passa parola, tutta la Sardegna era l'occorrente di questa cosa. Già lo so, vedi, io sono passato adesso con il baracchino che mi hai dato tu e il microfono di gemello di quello che avevo dato, ascoltami più tre, mi ascolti lo stesso. Positivo, perfetto Claudio, perfettissimo, e vedrai che riuscirò, e questa sarà una cosa che andrà avanti, perché questo lo facciamo quest'anno, poi l'anno prossimo sarà ancora più, vedrai, sarà ancora, adesso questo lo proviamo quest'anno, fare questo raduno, è una cosa bella, perché ci troviamo tutti quanti, facciamo un pranzo, una mangiata, una bevuta e ce ne rientriamo. Se ti ricordi negli anni che furono, noi ne avevamo fatto tanti, promotore, sempre Giovanni Camposanto con Michele, erano loro sempre promotori, ma arrivavo a Natale, tutti, c'era anche io, mi interessavo a organizzare e fare, facevamo spesso lì a Porto Torres, e abbiamo fatto spesso. spesso e volentieri, ma eravamo tanti, tanti camionisti in Indiana Well. Molti poi sono spariti, però questa che è praticamente in mezzo tra Porto Torres e Cagliari, diciamo, dovrebbe venire una bella cosa, dovrebbe veramente al top, al top. Va bene, lui, va bene. Questa è la modulazione che avrai tu, più o meno la timbrica è questa, poi tu c'hai la modulazione come la mia, quindi all'incirca siamo lì. E positivo, no? E poi va bene per casa. No, per casa va bene, per cambio tu te lo sai la passione mia, qual è? La sai benissimo. Per casa va bene, mi piace anche per casa così, però il cambio tu sai, cosa piace a me, no? È più forte di me, guarda, è una cosa, è una passione che mi porto da tanti anni. Quella è una. Sono delle secondo me è una passione, non lo so neanche, però ci ho coinvolto tanta gente, c'è Costanzo, questo lavoro all'appisto, Costanzo stesso, era sempre con quel baracchino normale, sui cani normali, così, e cose un giorno, ti piglia questo qua, è iniziato così, e cosa, e adesso si sta interessando anche lui per organizzare questa festa, si è appassionato anche lui, non lo so, è una cosa che... Non lo so, dai, perché poi lui ha conosciuto tutti gli come si è messo a creare sopra, no? Andiamo su 40 anni, conosciuto tutti viaggiando a Cagliari, tutti gli amici miei che ho nella zona lì, capita, conoscendo quegli amici, ha avuto già un rapporto, e gli piace anche, diciamo, ha avuto un rapporto d'amicizia anche con loro, e gli piace anche a lui. Sì, se lo sento ogni tanto. No, io già vi ascolto anche su 45, non sconfino quasi mai, preferisco rimanere sempre qua su 10, per far parlare meno la gente, ma quando capita già vi ho sentito spesso sul canale 45 parlando con lui, non ci sono problemi. No, beh, è giusto che sia così. È giusto che sia così, o Gigi. Va benissimo, alla fine poi si riesce a farlo la prima volta, se va bene si fa anche la seconda, la terza e così via, non è la prima volta che si fanno dei raduni e poi si portano avanti per anni, quindi spero che si possa continuare, insomma, ecco. Bella, perché io te lo ripeto, sono andato due volte, due anni di seguito a quello di Milano, del Borgo Manero, sono andato due volte e lì è quasi 400, è una cosa bella, per me mi sono divertito tanto e spero anche questa volta qua, dai, spero questa volta qua, speriamo non vedere niente, se fosse a Gazzino, speriamo di no. Perché io già li conosco tutti, però li conosco lavorando, viaggiando, ma pure non lo so come si compugliano, no, ma mi auguro di no. La testa è quella che comanda la persona, e lui è buon intenditore, poche parole. Se fate vivi in mare o so problemi suoi, non di certo a me, poco mi interessa. Dobbiamo viaggiare tutti, dobbiamo rientrare a casa tutti. Siamo tutti camionisti e autisti perché siamo in prima patente, sono morto, lo sai che anche io lavoro con la macchina, quindi perciò si beve in quello che si può bere e si sta tranquilli, si scherza e si gioca, però se poi il vino fa male a qualcuno allora è meglio che se ne stia a casa, perché con le nuove leggi se qualcuno deve andare a divertirsi e poi il lunedì non deve andare a lavoro perché senza patente sono cazzi suoi, io lo penso così. Sì, ma poi stavamo anche dicendo, no? Adesso noi proviamo quest'anno, io vedo lì dalla Puglia, da tanti posti, no? Affittano, si prendono un pullman, affittano lì da Puglia, lì a Milano, con pullman. Pullman completo, se uno sono due pullman, quelli che ci vogliono, capito? Mettono un tot a testa e vanno col pullman, rientrano col pullman poi la notte, la mattinata, capite? Non rischiano niente quelli che facciamo, fanno su in cosa, capito? Vanno in pullman, arrivano di pullman tutti parcheggiati pure il gos, arrivano tutti in pullman, capito? E così deve essere. La cosa buona è così, capito? La cosa buona è così. È così. Noi possiamo andare a fare la finale del torneo Endas ad Arda, siccome sapevamo che c'era la cena il dopo partita, perché abbiamo giocato di sera, è vero, lì mi pare 40-50 kg di carri tra bistecche, salizioni, vino, volontà e tutte cose. Abbiamo preso un autista di quelli che beveva, ma beveva proprio il necessario, il giusto e basta, e un furgone, insomma un camioncino, chiamalo Medici Pasquale, insomma da 12 posti, e siamo andati con quello lì. Ci siamo divertiti, abbiamo mangiato e bevuto, nessuno ha rischiato niente, e via. E siamo rientrati tutti a casa sani e salvi, capito? Ok, è rientrato Falchetto, avanti, riprendendo, io sto parlando con l'altra radio piccolina, perché quella là mi stava mandando un caldo allucinante, con la ventola in funzione, riprendi. Positivo, qua sta arrivando la grande, non c'è niente da dire, no, sta arrivando troppo bene. Ehi, dai, riprendi così, dai, riprendi così. Va bene Gigi, bisogna stare tutti tranquilli e soprattutto il vino vuole bevuto la forchetta, cambio. Sì, ma va bene, ma già poi il giorno già ci divertiamo, perché dai, se vuole Birillo, guarda, mi chiamo, ma chi l'ha detto io? No, io ci sono, Birillo, non gliene frega un cavolo se il giorno sta mietendo, se il giorno dice te la prende, non gliene frega niente, Birillo, entra un po' pure. Dice no, che almeno dice, anch'io dice, beh, conosco, dice, li sento parlare, ma non conosco a nessuno, tranne questi che ci siamo qua, Claudio, che qualcuno di qua, dice, conosco, però tutti questi, dice, mi piace, dice, voglio, e allora Birillo ha detto, no, vengo pure io, e viene anche il figlio, ha detto, mi ha chiamato, vengono tutti, anche il figlio di Alessandro, il figlio di Birillo, viene anche Birillo, ma anche lui viene. Capra, sono contento, dai. È una cosa bella, è una cosa bella, almeno ci si conosce lì in verticale, più che bello, cappa cappa, ehi ehi, vai Claudi, facci sognare. Eia, ok, ogni tanto bisogna stare attenti se qualcuno vuole entrare, no, figurati, l'ho detto anche io adesso non ho fatto i calcoli, ma posso farli tranquillamente se questo sabato ho lavorato, il prossimo non lavoro, si tiene i conti, lui conta, questo sabato ho lavorato e il prossimo non lavoro, fai un sabato sì, un sabato no, tieni conto, fai, quindi ieri ho lavorato sabato, il prossimo sabato quanto è, quanto ne abbiamo, non lavoro. Sabato sì, sabato no, sino arrivare al giorno 16. Mi pare che non ho già pensato il calendario, ma questo era 24 il sabato. Guarda, adesso un calendario, io non devo andare pure a pensarlo, va. Il calendario pure a te, ma non ce l'abbiamo a vederlo. Anche luglio, aspetta. Oh. Allora, luglio? Luglio, stiamo parlando di luglio, il 16. Allora, oggi oggi quando l'abbiamo? Ne abbiamo 25 e sabato era 24, guarda l'altro sabato quanto ne abbiamo. Allora, questo sabato è 23, 25, questo è 23, oggi è 24 domenica, il prossimo sabato ne abbiamo 30. Aspetta, me ne vado a vedere, perché nel mio mi diceva 25, mi diceva 25. 26 mi diceva, ma sicuro sì, che andavo a prendere tutto io, diverso, invece andato a controllare un mio. No, aspetta, è luglio stiamo parlando? No, tu lascia perdere giugno, il primo sabato di luglio quanto ne abbiamo? Ah, il primo sabato di luglio ne abbiamo due. Ok, quindi il primo sabato di luglio sono a riposo, il secondo sabato di luglio lo lavoro, quanto ne abbiamo? 9. Il terzo sabato di luglio sono a riposo, 9, quanto ne abbiamo? 16. Il terzo sabato di luglio, quindi è 2, 9 e 16. K, tu 16 sei libero. Il 16 sono libero, lavoro di domenica. Va bene, lavoro di domenica, non c'è problema. Quindi vedi bene, Gigi, che c'hai già, ce l'avevi definitivamente perché non ho problemi. Posso fare un cambio o essendo lì proprio in quella zona non ho nessun problema anche a dare la disponibilità. Ma non me la futti nuda, però sono libero. Il sabato 16 io sono libero. Va benissimo, va benissimo. Speriamo che tutti siamo di cosa, dai. Mi auguro così, dai. Mi auguro così, così ci divertiamo un po', dai, ci divertiamo un po'. E via, dai. Partiamo così, conosci, ti faccio conoscere di persona quella persona che non deve fare scatto a piarli, infatti lo faccio conoscere di persona. Sì. Ciccio Bello ti faccio conoscere, Iuri, quello che entrava e mi pigliava parolacce. Chi non vuole pigliare la parolacce, Ciccio? Senta, le facciamo uno scherzo, guarda, le facciamo uno scherzo. Diciamo, da Facebook a me, quando la pigliano, dico, mi dice che ti pigliano le parolacce. Chi non è che mi dice che la pigliano? Ma già, no. Però poi se quando l'ho trovato, perché lui poi si è tradito, si è, lui si è tradito, io lo sapevo, siccome è un amico, poi non ho detto nulla perché l'ho voluto salvare un po', però come l'ho trovato in verificare la questione è cambiata, ma è cambiata come? Perché poi non ha dato più fastidio, non ha dato più fastidio, ho detto guarda, è incaricato a Michele Polverone, quando ti troncano le ossa. Ma io guardo, no, Italia, infatti non ha rotto più, non c'è entrato più assolutamente. Buongiorno Michele, ma non avevi lavorato in un quartiere? Eravamo qua sul 10, lui stava, allora io che stavamo molto in radio la sera e così, sono entrato, una parolaccia, si è nato di tutti i colori, e io lì non ho neanche attaccato, ho detto ma c'hai qualche problema, c'hai un boh, massimato in testa, ma cosa vuoi, ma chi ti sta cercando? E lì un po' si è calmato, alla poi torna una mezz'oretta, non so se stava risalendo la porta attorno, se torna, altrimenti al tuo video ti bisogna parolacci. Ehi. Chi due? Dici, due, ui. No, aspetta, Falche. No, molto prima di esserci Antonio, di prendere Antonio, veramente era di Veraburo, la moglie di Franco, di Teresa. Sì, una volta è successo che c'era Franco che non aveva piazzato l'antenna. Non aveva piazzato l'antenna ancora. Però poi ci ha ripreso nuovamente a parolacce, ma poi eravamo io, Falchetto, sempre su canale 10 qua, sul canale 10. E lui stava andando a sganciare a Porto Torres e poi ne ha dato a trattori. E da tutto una bilutrata, lei o mio. Ho preso. Mi pare non viene ancora, ma se non mi voglio ricordare, mi pare non c'era ancora Falchetto, ovviamente ora dire con Forama in macchina, intendi io, le vetture, l'esercizio, poi gli aspetta, poi io ho detto ma chi è questo qua? Ha detto ma chi è? Mi ha parlato male pure a me, poi ha capito che ero io, e allora c'è stato zitto, perché sennò io l'ho riconosciuto. Poi un giorno, ti ricordi di particolare, poi quella settimana dopo 3-4 giorni o 5 pure, cosa è successo lui? Mi ha incrociato, per sbaglio, mi ha incrociato sul 5 normale, così ero mi sembra, e mi ha parlato con la stessa voce, perché tu entravi a salutarlo a lui ti faceva un'altra modulazione, e tu parlavi con lui, con questo qua, ti ricordi Nicola Meclare? Ti ricordi il famoso Nicola Meclare? Esatto. Veramente ti trovavo come Nicola Meclare e tu lo parlavi Luca, se sei trovato in India, gatto di Nicola Meclare che ti hai dato. Però poi di vettura giambava e si faceva una voce chiara, più diverso, un paracchino diverso, ti ricordi? Mi ricordo, non c'è problema. No, ma guarda che Antonio è stato un anno con l'antenna piccolina, lo sentivamo noi, e poi avevamo montato l'antenna grande. Ma quando c'era l'antenna grande tu? Oh, neanche un anno, ma io me ne ricordo in particolare, c'avevo un'antenna piccola, ma già, io attaccata il giorno, oi oi oi. Poi, bello cos'è, un giorno mi incrocia a me lì a, a Sant'Orsola, mi incrocia, Cicciariello, se c'era Claudio in ascolto da qualche parte, ti ricordi Claudio? E tu subito mi hai chiamato dicendo, questo è quello che ci prende a parolacci, chi è questo che sta modulando, ti ricordi di qua? Niente, ci mi ricordo, ma io ti ci stavo ascoltando io. Eravate sul canale, ma che cosa eravate sul 5? Io stavo ascoltando e ho inteso all'inizio, chi è quello che ti ha chiamato e stai parlando con lui? E tu mi hai detto, chi su, se mi dà parolacce, lì la riga cantiamo, ci va a vite con un capo. Ehi, dammi a mente su particolare, non negato, ti ho detto che non era lui, ti ricordi? E poi tu metto questo mio amico, però ti stai sbagliando, lui vive già 40 anni in radio, l'hai già detto che è tu, è lui, questo è quello che ci ha preso a parolacce, a un'età, gli ha detto la moglie di Franco, c'era mi pare anche Luca, adesso non mi ricordo la gente che c'era il giorno, Mazza, Cuto, una santa, Rada, Denisi, da tutta la generazione, mamma, figli, suoceri, tutti vi sono passati. Vero, pure io, un'antenna piccola, c'ero anch'io, così, vero pure io, ha trattato pure a me. E con 1.400 anni fa, Michi, sta cosa, se non si curo, Michi, non è adesso, Michi, da parecchi questa cosa, 1.400-5 anni, Michi, che sono fatto, e poi non ha dato più fastidio lui, più, perché poi io, quando l'ho ripetuto, l'ho trovato di verticale, no, domani, dopo un paio di giorni, siccome siamo molto amici, gli ha detto, attenzione, tu hai la persona sbagliata, allora, non è più entrato a fare, e poi ha messo anche la testa a posto perché c'è un baracchinetto normale, no, non disturba più, guarda, no, non è che si sente più, capito, è passo esce da qua all'Isola, da quando si è comprato il camion nuovo, non attacca, mette un baracchino normale e basta, capito, e non dà più fastidio, però prima era che tu uscivo per fuori, tu Nicola Meclare, adesso si finiva buon paziente da lontana, te la metti Nicola Meclare, che è un bel amico, e Luca non ha mai compreso, la prima dita ci mi aspetta che Yuri Ciccio Bello e Nicola Meclare, mi chiede, ma bene, ma sono così e uscivamo, staccava una radio potente, era sempre lo stesso paracchino, poi lui spegneva, girava, spegneva le modifiche, le famose modifiche, la via 48 da Metica, prendeva, va normale, lo passava tutto e usciva passo. Insomma, come ci fotteva, cambiava completamente il radio, di tu diceva in due, non buonasera, ma tesi cosa. Un po' di vento mi dava tranquillo, e lascialo perdere, maleducato, con baracchino normale. Cazzo, da cui ci amava, sinceramente io vi ci sono bello, e t'abbia la Bibbia, gli ho detto, oh, io guarda, io sono qui. Se vieni dai giù di Curunco e poter roccia a capo di scemi e ma non se ne parolacce che diceva. Ehi, già lo sentivo io già. Ui. San Claudio, ti dico una cosa. E un giorno poi, sempre quel periodo lì, ha dato Mazzana a parolacce che ti ricaglia la registrazione fissa. Guarda, ho avuto problemi la volta pure io, perché? Non ti spiego perché, però io gli ho detto, attenzione, non siamo tutti, anche se io sono di Sassi, perché lui, questo Paolo, che siamo, adesso siamo molto amici, che è molto amico di Michele, adesso è diventato amico di Michele pure Paolo, che parliamo attore. Mi ha sentito che parlavo con lui, a volte in zona di Cagliari mi sentiva che parlavo con lui, e ha detto no, anche lui è amico tuo, essendo amico tuo dici tu sei come sei, ha detto no, non siamo tutti uguali, lui sì è amico perché è un amico, però e anche lì ha smesso, perché poi gli ho detto guarda che hanno capito che macchina c'hai, la scritta che c'è davanti, c'è la scritta in grande Yuri Ciccio Bello, non ha cavato la scritta. sa poi ci siamo fatti pure un cambio, ci ha affidato un uovo, però ormai sapevano già che macchina, che tutto quel periodo lì, mi, e allora ha smesso completamente, anche se no sono riuscito a attaccarlo pure in Cagliari, compreso. Allora lui piaceva scherzare, fare, però erano sono scherzi di cavolo questi qua, capito, sono scherzi di cavolo questi qua, capito. Sì, scherzi del cavolo, sì, ho messo la Bibbia, non mi sembra, mi trattia nuda, roba di parolacce l'ha detto, me lo ricordo perfettamente, infatti io poi quando l'ho riconosciuto, ti ho telefonato subito, ho detto, ah, questa modulazione, sì, io la conosco, dimmi che lei, perché lui è quello che ci ha parlato male, è quello che entra a fare casino, anche quando non stai cercando, cioè tu ci vai a vedere tranquillamente, io detto, tre dia, e rompevo le palle. E tu mi hai detto, mi ricordo, no, no, ma guarda che ho un collega mio, camionista, qui e là, mi ha perso, ti ha giudito che è tu, ti ha giudito che è tu. E poi alla fine sei riuscito a capire anche tu qual era il problema, capito? Riprendi il fatto che vada bene, oggi che ci ha mangiato, ci ha rito, che ci ha mangiato, ci ha riso, senza maionese, senza nulla, ci vuole sempre bene. Così è. Cappa, cappa. No, adesso già si è data la calmata, Claudio, si è data, ma Gigi, si è data la calmata, Sì, sì, no, ma io lo sapevo, perché il giorno è capitato, il giorno, ricordo, era in vettura, io già lo sapevo chi era, che io l'ho riconosciuto, io ormai ho imparato, io l'ho riconosciuto chi era, però lui... io ero in vettura, no? Ed ero al Conforama, mi ricordo ancora, sento queste cose parolacce, chi deve dare, io l'ho riconosciuto subito, e ho detto come lo vedo, però non l'ho detto niente in radio, come lo vedo, ecco già lo dico io, come lo vedo. Poi invece dopo un giorno, indomani, dopo due giorni, mi incrocia lì a Sant'Ossola, mi incrocia a Sant'Ossola e al Pagliato, di solito usciva con, perché il bello è che lui parlava con Claudio, parlava tranquillamente, Nicola mi Clare. E con Luca, se no, con Luca, isso quando abitava con Luca, Nicola McClare, quando gli dice, io guarda qui, mi fa dire il complimento, lo conoscevamo per Nicola McClare, compreso, ma da voi, di giambava la radio, di cavava la modifica, di cavava la cosa e fate una voce tutta diversa, tipo con la voce che ho fatto io un giorno, me. Che, ti ricordi Falchè? Fatela quel tipo di voce così, col baracchino fatto, cambiato, fatta normale, così facevano. Cappa, beh, entrava nel tranello e ovvio si confondeva le idee, io lo so, ma va bene, dai, è importante che sia tutto passato, tutto rose, dai, già va bene. Ma già non ve l'ho fatta io, però io mi allora io stavo lì, no? Ero lì a scala di gioco, ho chiesto già che ho detto per il discorso che mi avevano dato fastidio, ma questo è da poco per l'avuto di Pierpaolo. E ha detto, ma ti posso una fornatura, quando ti piace la galleria ti posso una fornatura, a Falchetto, ma a te la volevo fare, ti volevo fare uno scherzo veloce, ma ditelo subito, ma chi se puoi che mi stavola così, ma io ho detto, me lo metto uscire da così, ma manco la metto cosa faccio dito, ma io era uno scherzo, stavo facendo a te, capito, perché è entrato via il palco, è entrato in Madonna. No, ci stavo cascando anch'io, la verità. Poi invece ho anticipato Pierpaolo e allora non mi ammetto più il radito e una cosa allucinante. Sì, ma non quello perché io manco quando me l'ha giudito. Quando me l'ha giudito la verità che ero io, non mi piglia nemmeno. No, perché era diversa la voce, Gigi, era molto, molto diversa, capito? Guarda, una volta l'ho fatta già di doppio rua, tu sei offeso, non glielo ho detto però che ero io, non so se dopo tanto tempo glielo ho detto, il giorno era uscendo da portatore della camionata, come lui è molto, diciamo, ci tiene molto alle cose, ma si è offeso a me il giorno, quanto si è offeso già nel testo, io ho fatto una voce diversa e... non gli ho fatto un tanti complimenti, ma gli ho fatto uno scherzo, così volevo fare, dai, uno scherzo. E Gianni si è ripreso lo stesso. Invece Claudio gliel'ho fatto un giorno la voce della donna, sì. E no... anzi, Claudio è stato lo Yuko. Cappa, cappa, mi prende Claudio. Sì, sì. A me tutti tu. Io l'avevo capito subito che tu, sono stato giù così, ci mancherebbe altro. insomma, non sai ma come ci ho avuto di giocare alla radio, via. Si offende di subito, capito? Però quando ho già bisogno che offende via dell'altro, allora tutto andrà bene. Va bene, io mi devo fare qualche lavoretto qua. Sto inquadrando, tanto inquadrendo, voglio spostare di nuovo il computer all'angolo e portare avanti tutte le radio, questi che si baracchini qua, questo che sto usando, perché lo voglio usare ogni tanto, e siccome è proprio in disparte, mi viene male a trasmettere. Quindi dopo mi sposto tutti i cavi, me lo porto più avanti, così mi viene meglio. Guarda lui, io ho a casa quello che tu praticamente hai dato a Mauro, diciamo, che poi non so se era mio o se era quello tuo, perché noi abbiamo fatto due ricambi, adesso non ricordo qual è, quello che avevo io nella Citroen, che c'è una bomba, non so a chi l'hai dato, se è quello che hai dato a Mauro, ce l'ho qua io. Di che cosa stai parlando? Aspetta un attimino. Di che cosa stai parlando tu, Clark? Dato io a Mauro? Non lo so, ma io a Mauro mi pare, cosa gli ho dato a Mauro? Non mi ricordo. No, a Mauro gli ho dato darmi più 4, mi pare gli ho dato io. Più 4, più 5, no, più 4 gli ho dato io e basta. Dammi più 4, se lo stavo comprando, ho detto vai da Luigi, a nome mio, per far trovare che so che ce n'è uno, lo sta parlando. Baracchino al 48, quello che hai dato a Mauro, qual era? Quello mio o quello tuo? Quello che avevamo fatto il cambio col Magnum o qual era? No, il 48 di Mauro no, l'avevo preso di fatto in Sicilia quello lì. No, quello l'avevo preso da uno, da cosa, di Tommaso era, di Sicilia, siciliano quel baracchino. Quello di Mauro non è quello, non c'ha niente a vedere, quello era quello fatto da Piero Lumacone Sicilia, capite? Quello siciliano quello lì. Però non ce l'ho io. Ce l'ho io qua, capito? Ma no, se lo faccio andare, col microfono normale, normalissimo, perché no, non mi va a farlo andare così, capito? No, non mi va, quello lì. Ma l'altro invece che, allora, io te ne avevo preso uno nuovo, praticamente normale, che poi tu avevi fatto, però io te ne avevo tornato uno che era il tuo. Salvatore. Me l'ho dato a Barra Agricola, quello lì a Salvatore, poi tu quello che avevi comprato tu, che mi avevi dato, quello, no aspetta, quello che io ti avevo dato era quello mio, che avevo io da Giancarlo, che ti ricordi, che era una bomba il suo baracchino, e quello poi tu me l'avevi tornato, io l'avevo dato a Barra Agricola, e poi tu me l'avevi comprato un altro, non mi ammetto per cosa avevi fatto, Giambo, te la metti. Ecco, quello lì l'avevo modificato Roberto, e c'era sempre anche quello Barra Agricola, l'avevo dato a lui anche quello. C'era tutte e due Barra Agricola quelli lì. Esatto, era la differenza, mi ricordo, di uno scambio che abbiamo fatto, e tu mi hai detto, no, io soldi non ne voglio, mi compri una 48 originale, nuovo, che io non devo far modificare, così avevo fatto. Sì. Adesso ho capito. No, ma ricordo di Mauro non esce molto, molto forte. Forse è lui che non lo fa andare, non lo so. Non lo so, io l'ho provato una volta qua a casa ed era una saetta. Usciva molto, molto forte. Forse lui, Bruno, non l'aveva messo in macchina, quindi l'aveva tolto. Adesso trovato non sta neanche più entrando, anche perché non sono più io, non c'è più la greffa nostra, quindi eccetera. Ma se le dico che ogni tanto le prendiamo, le attivo nuovamente tutto. Va bene. Grazie. Mi lamento, dice Giudice, c'è un bello, sentiamo la faccia. Ehi, c'era anche Antonio, oggi aveva la base magnetica, Antonio. C'aveva la base magnetica, io ero via Pascoli, non ero neanche qua a Sassari, a Carmati, ero in via Pascoli, quindi 4 anni fa, non c'è problema, lui ancora antenna non ne aveva, momento. Capparoccia. Ehi, cazzo, quando mi vedeva, male, cazzo. Ma Paolo va, c'è di brutto, cazzo. Era una cosa allucinante. Non lo so, Paolo, perché... Ma quando la c'è per piccare, cazzo, è una bravissima. Guarda, è un vero amico, cazzo. È un vero amico, veramente. Già te lo faccio, già deve venire anche lui, già te lo faccio, lo chiamo a pace con me, ecco, faccio lo scherzo. Tanto è minoretto, non è molto, molto grosso. Non è tuo grosso, ma quello è il problema. Non me ne ho mai messo in questi problemi. Cosa stavo dicendo? Ma a proposito di partenza, ma noi con chi andiamo? Io le macchine che faccio sono tutte a due posti. No, ascoltami, guarda, c'è allora da qua partiamo, c'è Pirillo, che lui ha detto che fa con la macchina sua, che c'è Barra Agricola, Salvatore Barra Agricola c'è, anche Salvatore c'è. C'è Costanzo con la macchina, c'è Giovannino l'originale, poi c'è Pierpaolo non so se va con la macchina mio figlio, se vuole andare con la sua o il BMW, se vediamo un po', se andiamo, vediamo Giovanni già c'è la macchina grande, l'originale, e ce ne siamo quattro seduti lì già. Poi c'è Costanzo, ha detto che lui deve tornare presto e va con la macchina sua. Massimiliano deve tornare presto e mi sa che va con Costanzo. Pirillo va con la macchina sua, Barra Agricola va con la macchina sua. Per quello già ci mettiamo d'accordo come andare, dai. O con Salvatore Barra Agricola, Falchetto, Costa. Ma vediamo un po', perché già in quella di Coso, di Giovanni Originale, ce ne siamo già quattro. Ci possiamo stare quattro, io, tu, Falchetto e Pierpaolo, se non vuole andare con la sua Pierpaolo. E siamo in quattro, e siamo in cinque, così è, guagliatemi sopra. E siamo in cinque, per cinque posti e siamo giusti. Intanto ci abbiamo i baracchini, no? Dice il baracchino, ho già il baracchino, quindi io già metto la R48 a tutta birra, con la base magnetica. Già ce l'ho l'antenna, con la base magnetica. No, io vengo col Peugeot. Ah, Falchetto già posso prenderlo io, non c'è problema. Noi siamo in due, perché la macchina è per due. Tanto io due qua di andare, cioè la 600 la Peugeot, prendo la Peugeot che è a Gasuri. E metto quella che mi hai visto tu. Non avevo bisogno manco di pulire la base magnetica a proposito. Cosa base magnetica? Faccio l'attacco PL. Ehi, l'antenna va già. Ah, grande, se la base magnetica. Mi stavo dimenticando. KK. Metto solo il baracchino e buh. L'antenna nella Peugeot c'è già, quindi non c'è problema. E cos'è il discorso, Claudio? Sai cos'è? Allora, io sai perché vado con Giovanni, la chiedono un quinti a Simio. Era un problema, hai compreso, ma non è che mi invece di fare un coso, però sai cos'è? Capita, cazzo, poi per camminatura in Arezzo, cazzo di Femmane, pure se sono andate una pizza, quello è il problema, hai capito? Ecco perché ho detto io vado con Giovannino a chiedere a Simio, se non pizza sono tranquillo, sono una botte di ferro. Ma neanche io volevo, non ti preoccupare, sono finiti i tempi di fare ciabedoni, no? Non ti preoccupare, io posso prendere Antonio, che siamo vicini, così facciamo la stessa strada, andare a tornare. Metto Vito l'antenna nella macchina e metto il baracchino uscì in volante, giusto per avere compagnia e cosa, e non c'è nessun problema, figurati. Te l'ho detto che bisogna far funzionare la testa, la patente ci serve a tutti, osteria faccia una cacca, basta che bevo regolarmente, tranquillo, io stesso non è che esagero, la verità, meglio quando faccio strada, devo essere lucido, purtroppo così. È positivo, no, ma poi non è che voglia, ma io vi pongo un'ora in camion, il camion è più piano, in vettura avevo meno di un'ora, cosa tipo. Intanto qua guarda, quando siamo a mezzogiorno e mezza lì e tutto va bene, quando uno a mezzogiorno e mezza lì va bene, va più che bene. Cappa cappa, riprendi qua. Io posso prendere Antonio e scendiamo lì giù da te, tanto l'appuntamento non è giù da te. Non lo so, no, se... ma ecco, tu fate prendere Antonio e poi andiamo, ci cioè, organizziamo se andiamo tutti con Giovanni l'originale, allora cosa vogliamo fare? Lo so, ma bisogna che siamo sicuri che se mi guarda chi non la mette in macchina. Ma già ci abbiamo ancora un po' di tempo, capito? Sentiremo Massimiliano cosa vuole fare, perché al limite si può andare se ci stiamo tutti con la macchina, se siamo in cinque per dire si può andare con la macchina. Se quella è Giovannino, mi ricordo che è grande, quella è Giovannino. E lui c'ha macchine grosse, quella lì è condizionata, sono macchine matte, insomma. Una macchina grossa, grande, già due le macchine ma sono grosse, capito? E niente, al limite non c'era più, basta che tu scendi da Falchetto, senza andare tanto lontano e poi ci mettiamo d'accordo, ci vediamo la sera prima come siamo messi, cosa dobbiamo fare, e ci telefoniamo e sappiamo al limite se per Paolo viene con me, con Giovanni, Nino, ci siamo tutti per andare con la BMW anche per Paolo, che cosa è la vita, è meglio che no, che anche lui deve per lavorare la patente, non lo so, dipende se vai con la macchina, se vai con la macchina tua, se con la sua abbiamo già troppe macchine, che ne scende da Usilo, lui scende da Usilo al limite, così sono due, o passa Pierpaolo direttamente, parente da Usilo e vi piglia tutti e due. Ora perché poi ci abbiamo il tempo, ma ci possiamo anche mettere tutti d'accordo, e una certa ora ci troviamo da Brescia, tanto ci viene tutti di passaggio. Capito? Ci troviamo da Brescia, ci prendiamo un caffè, una cosa e poi partiamo tutti assieme, secondo me. Sì, allora al limite qualche macchina tu dici lasciarla da Brescia al limite, se ci sono truppe, se non c'è bisogno. Infatti io direi di fare così, e anche per Paolo di scendere lì vicino da Falchetto e lasciare anche la macchina sua e andiamo tutti con Giovannino che non vende. Noi, al limite, la buona vicino chi guida da Falchetto, la macchina per Paolo e se andiamo tutti con Giovannino e siamo in cinque, siamo tranquilli. E noi con Giovannino da ottava passiamo in chili a pigliare voi e vi pigliamo tutti e tre. Scusate tu che per Paolo scendendo da oggi lo passa davanti a casa, quindi la macchina la butta pure a casa. Se per quello, poi da casa mia scendiamo che dobbiamo scendere, no? Possiamo fare scaleccio, capito che c'è Antonio, possiamo scendere, prendere il pacchetto e uscire da Via d'Italia e già ce n'è di non ce n'è problema o lui, noi uscire tu. Sì, fate così, cioè la macchina si può lasciare anche se ha problemi per Paolo, lasciate sotto casa, non ci stanno problemi. O viceversa, passa a casa tua, Claudio prende a te, e per dire per Paolo prende a te, tu scendi prendi a me e da lì ci si va, dai. Si passa dalle gallerie al limite o da Scala di Gioca, dove vogliamo e ci troviamo lì da Brisi. Oh, non avete capito, no, qualche... non mi ha capito. Allora, noi con Giovannino stiamo salendo da Ottava. Salendo da Ottava, noi entrare dentro, non ci costa nulla, entra un attimino lì da te e vi fate trovare tutti lì, capito? Tanto faccio un colpo di telefono e ci vi trovate tutti lì, capito, qualche... E non state lì a andare a uscire da Brescia e cose con le macchine, nulla. E rientrando noi, dopo le gare lì, entra in Via d'Italia vicino a casa tua, sta... Per Paolo si prende la macchina sua, Claudio non so se scende con la sua lì o se viene o se prende la sua e viene lì, siete già arrivati. Ah sì, di fronte alla chiesa, nuova l'hanno fatto, sì, Gigi, va benissimo, anche così va bene. No Claudio, salendo, no, un attimo a entrare, capito? Se siamo noi, se e venirlo a usare con la mano. Ecco, e noi andiamo insieme, andiamo con Giovannino, sempre se Giovannino non c'ha qualche don altro dalla zona sua, quello dobbiamo sempre vedere, a volte se non venga qualche altro amico suo dalla quella zona di Badisi, quella zona lì, quello non lo so, questo non lo so, però noi la macchina ve l'avemmo, tranquillo, vedete, se non vede Giovannino vedi sempre Pierpaolo, che deve venire pure questo, lo BMW, già siamo comodi con l'aria condizionata Roma stessa. Al limite salgo io, se in caso tu ti andiamo male, attivo la pittura mia da te, e poi andiamo con Pierpaolo. Ciao, va bene, ciao, va bene. Vabbè, va bene, vi fermate lì alla chiesa, poi magari Claudio scende, si ferma lì sotto a casa e vi aspettiamo lì alla chiesa nuova che l'ho fatto, dai, e non ci saranno problemi, Gigi. E facciamo così, dai, che andiamo tante macchine, vedi come ci siamo organizzati, poi la sera prima lo sapevo, io dopo Giovanni se è solo, ci sono già, e poi Pierpaolo ce ne parlo io, per andare con tante macchine, andiamo, vediamo un po', dai, cioè, perché con Giovanni non siamo più tranquilli, che lui non beve a semio, e niente, siamo sicuri che siamo andati in più, siamo più tranquilli, compreso. Ehi, ehi, ehi, vai, Clark. È positivo. Sì, in realtà rimanerà così, poi se ci stanno problemi, Gigi, ci si sente al telefono e ci si dice, dai. Che non stiamo prima a fare la macchina, pure la macchina mia arrivi, mi ammaccomini. Senza ricondizionata mai arrivi. Sì, per quello. Già non ci saranno problemi per la macchina, dai. Oh, no, per barra agricola, beh. Per barra agricola, per birillo. Adesso mi venite una macchina da inopiniante, per costante, per costante non è solo. Però ho costato tutto il ragazzo, Allora, ci mettiamo d'accordo, penso che venga anche Domenico Tarzanetto, Vieni Domenico, ben sia Domenico, Se vuole venire va bene anche per lui. Beh, ahi. Stavo dicendo che senz'altro verrà anche lui, senz'altro, e se non ha intuppi o impegni già viene anche lui. Positivo, già va bene. Tanto sempre che si sappia prima di fine settimana. Sì, devo fare delle cose, niente questa settimana devo fare, dobbiamo fare le cose, dai, devo dare l'elenco e tutto. Tutto sì, Ehi, mi ha chiamato Marco, non Teresa, Marco Scorpio, sta rientrando, volevo richiedere un'informazione. Ok, secondo me non ce n'è problemi, dai, ci mettiamo d'accordo la settimana prima o qualche giorno prima dell'ultima settimana di sabato, che appunto prima di arrivare al 16 ci mettiamo d'accordo e non c'è problema. Passare più poco qua, ci possiamo trovare dove vuole, ci mettiamo d'accordo. L'importante è partiamo meno macchine possibile, tu mettiti d'accordo con Massimiliano, se no ce lo chiamo anch'io Massimiliano, voglio vedere se va con la macchina sua o se va con Giovanni lui. No, va con cosa? Va con Costanzo, perché rientra presto Costanzo, ha detto lui non si trattiene, fa la macchina, e anche lui dice non si trattiene, Massimiliano, e torna presto, e allora fa si mette d'accordo con Costanzo, capito? Si è d'accordo con Costanzo e va in macchina con Costanzo lui. Io già devo muovere la buccia, domenica io lavoro, noi dobbiamo fare notte fonda, ci andiamo a pranzo oramai, alle voi che alle 7, alle 8 non siamo già tutti a casa. Quello sì, ma vedi a questo vuoi andare prima, cosa vuoi dire? No, aspetta che da voi mangiato, da voi se ne bisogna le 4, le 5, se ne bisogna la vacca, a disposizione, ci abbiamo, solo la sala ce l'abbiamo a disposizione, poi se vuole guardare a occhio, se vogliamo cantare, vogliamo va. No, non hai compreso, Claudio, ce l'abbiamo a disposizione. Come si è? Allora io mi voglio far chietto il cantello. E anche quello, c'è la veranda fuori per uscire a fumare, è fatta apposta, abbiamo guardato e va bene, perché c'è la porta, abbiamo il bagno vicino, la porta vicino a uscire fuori, c'è la veranda, uno può fumare, giustamente deve stare a ruccare per l'aria condizionata, per un costo, non si può fumare, e si fuma pure, e spera per la veranda, e sicuro si può andare pure sotto la veranda e fuma, uno deve fumare, no? Sì, lo conosco quel posto, lo conosco lì, praticamente vuol dire domenica, no, quando e smantiamo Piazza dei Sini e vediamo Luca Ferrantico. È stato un capo di primo centro, attenzione, se va anche Zubrigo, il capo Zubrigo, l'attacco di questa macchina sul furgone dentro di Cassotto, l'attacco da Zubrigo, da Corrente, e che modo che Meritro te acqua un vizze, e non so come la Zebone, se va a Zapelle, da uno e anche lo Wonzo. No, no, non è dico io, c'è per Luigi. Io mangiavo, posso bere l'acqua e il vino e boh, niente su per Curici, perché c'è uno sforzo grande che sto facendo perché la compagnia è quella che piace a me, perché siete voi, perché c'è gente che conosco, eccetera, se no c'è una dieta ferrea, se vuoi farà da un bel bobo. Però insomma, una volta non succede niente, vuol dire poi si riprende tutto il baravan per stare nuovamente a posto. Per una volta non succede niente, però guarda, è un attacco di superalcolici, perché io può prendere anche una pastiglia, quindi devo fare le cose fatte bene, si è ripresentato nuovamente il problema e quindi devo nuovamente mettere a posto la situazione. Avanti, perché? Ehi, che andrà bene, è importante che ci si va per divertimento, non per tornare a quattro gambe. Vai, Gigi. E positivo, vai, poi uno, sai, anch'io voglio stare tranquillo, ma infatti non lo di domenica, io l'ho inclusa di domenica, lo sai perché? Perché tutti dobbiamo andare là, poi lunedì, insomma, anche lo sabato, poi ha detto, ma così la domenica la digeriamo un po', capito? L'ho voluto fare meglio il sabato a pranzo, non di cena, che la cena sono casini da voi, da tutti, a tanto, hai compreso a far cammino, meglio del giorno, a pranzo e via, lo locale c'è il vento fresco, c'è tutto il vento, sarà l'aria condizionata, ampio, bello, c'è il bar, c'è il coso dentro, da una parte c'è il bar, se uno può andare con un amico e si può pigliare una cosa, c'è tutto, perché c'è, allora il menù è, c'è l'antipasto, allora ci sono moscardini alla diavola, come antipasto c'è di terra, salumi, sottaciti, tipo carciofini, cosa varia, è un misto di mare, di antipasto. Poi come primo piatto ci sono ravioli alla ricotta con coso porcini, come si dice, forse col sugo fatto col coso porcini, col funghi porcini, dai. E poi ci sono le fregole ai frutti di mare, cioè tipo le spaghetti, quella pasta fresca fatta tipo spaghetti piatti, non tagliatelle più stretti, come si chiama, quelle fatte a frutti di mare. E poi c'è il porcetto arrosto, contorno di patate in forno e verdure, pizzimonio e cazzate varie. Poi c'è il sorbetto e poi c'è la grigliata di pesce misto, poi digestivo, caffè e via dicendo. Il cappa. Ciao, va bene, vai, grazie. Sorbetto, ma bisogna associarlo. Sorbetto, una cannuccia di tutto, te lo danno, te lo fanno dopo il porcetto, no? Si fa al limone lo sorbetto, no? Ti fa tratto la rabbia che ti fa mangiare i rubesci. Ah, se vuoi sapere, ok. Fai una cosa, io mi vengo lo sorbetto, tu ti tieni la cannuccia. Però ci sta già pensando Costanzo e anche qualche un altro, anche Peppe Caffettiere, via dicendo. No, dobbiamo metterlo in Facebook, dobbiamo fare il filmato, facciamo tutto il filmato, come lo fanno a Palermo, facciamo un bel video, un bel coso della festa, capito? Facciamo una bella cosa, capito? Facciamo, come fanno le cose? Prenderò il microfono in mano io, lo faccio io e faccio il giro, siccome io li conosco tutti per nome e per coso, o io o qualche un altro, faccio il giro, come fanno a Palermo, io facevo il filmato di Palermo, fanno in giro, ecco, questo è il famoso Claudio Spalviero, questo è, non so, Gigi Vulcano, il grande, quelle, come fanno a Palermo, e fanno tutte le nel video, tutte le presentazioni, a parte che abbiamo scritto nella maglietta il nome, però si fa le presentazioni, che arriva dalla città di Sassari, da centro Sardegna, capito? Come lo fanno lì a Coso, si prende in mano il microfono, si fa il giro con la telecamera, uno per uno, dopo si intavola e si fa tutte le presentazioni. Bella fatta, ok. Gli uccisi più rapaci al mondo, ragazzi, Spalviero e Fonchetto. No, deve essere una cosa bella, deve essere una cosa bellissima, Claudio, e ci divertiamo, vai. Sanno che devo beccare a Peppe di Stato, lo saprà, Peppe Spalviero, sperando che sia qua in Sardegna, perché di solito rimane qua, è sempre qua. Se lui è in Sardegna, tranquillo, già c'è Peppe Spalviero. Che la moglie è sarda, però di solito fa un po' qua in Sardegna e un po' in Sicilia. Se c'è Peppe Spalviero, anche lui lo conosco esattamente dall'88, 88-89 a Peppe Spalviero, e già si chiamava Spalviero, da quell'epoca lì. Da sempre, dal 1975, da quando ho la concessione CB, perché prima non praticamente riuscivo a musico di nome, a portosi, eccetera, però io sempre Spalviero, dal 75 a oggi sempre Claudio Spalviero, sempre, infatti c'era, se ti ricordi, Mario Tiana, che ci aveva messo una volta a Spalviero 2, me l'avevi detto tu, se aveva avuto viaggiato la DNT, in bianco, in altra, allo spoiler del camioncino, Spalviero 2, grazie. Mi ha detto Michele, Giovanni, dove ti hanno preso, non mi attimo, ma a me, no. Una mattina mi sono alzato alle 5, ci ho bruciato il radio, come ti scendo il capannone, io mi, non mi te tu, ma questo Spalviero che ti ha autorizzato a mettere tu, perché uno, due, cosa fa? No, nessuno ti chiama Spalviero 1, Spalviero 2, o ti chiami Spalviero e voi, se dico uno, due, non mi inviate a me. E non ho fatto neanche obiezione, perché tra l'altro è una persona grande, una persona che io poi ho conosciuto quando ho iniziato anch'io l'attività di autotrasportatore con i furgoni, noi ce ne avevo due proprio all'attracco, due erano l'SDA e due erano la Polda. E quindi abbiamo fatto amicizia e ce l'aveva addotto, non c'erano problemi. Che positivo, ma questo mi pare glielo detto un giorno a me. Mi pare che gliel'ho detto che c'era la stazione nel nostro Spalviero, sai, mi pare che gliel'ho detto un giorno. Non mi ricordo, però mi pare che gliel'ho detto. È una persona, viene molto spesso Alghero a caricare bottiglie e cose, cioè quella roba che portano alla Sicilia. Lui, in poche parole, lui è siciliano e diciamo arriva la nave, lo prende i rimorchi e torna a imbarcare, siccome la moglie è sarda, però c'è la casa sia qui a Cagliari che in Sicilia, capito? C'è un periodo che si passa, per esempio anche un mese sta in Sicilia e poi torna a venire qua, capito? Lui è Nicola, capito? È un grandissimo amico, anche Peppe è un grandissimo amico, una bravissima persona, guarda, se ce la conoscerai, è una bravissima, guarda, una bravissima persona, un tranquillone, capito? Un tranquillone, quando mi vedi da lontano, quasi di tutta l'ampice, e tu mi vedi in siciliano, Gigi Vulcano, miglia, mannaggia, con l'ero senza vedere, Gigi Vulcano, aspetta, ci prendiamo a caffè, e ogni volta che ti appena, se ti fai provare, ma sempre mi devi baciare, abbraccia e mi bacia ogni volta. No, bene, gioca a corso, passa da Gigi così che io guardi dove li canti ci vado, ma di nuovo Mauro per ci caffè giù ai punti che c'è il circolo Gigi, no? Te lo sai. E c'è sempre Giovanni, che tu hai messo da Giovanni, due risate ne abbiamo fatto. Siamo visti a Pasqua lì, ci abbiamo fatto gli auguri tutto, due chiacchiere anche con lui, vecchi anni, ma anche lì lo stesso, 20 anni fa, era lo stesso patatrax, in un gruppetto, le robe. Allora succedevano più spesso però queste cose, molte incomprensioni, ma eravamo tanti, quindi sai, era una cosa un po' più calibrata, era più sul personale, capito, molte gelosie, molte cose, ma adesso con 4 iati che siamo, 5 iati e 3 musicheggiani e l'altro i siringhi di zampette così e fa che. Kappa. Va bene dai, ne approfitto a salutarvi, vado a fare un po' di carica. Se concilia più dopo, se no tutte le migliori alle prossimine. Ciao Claudietto e ciao Gigino, dai. Ciao, ce la riascoltiamo le prossimine. Fatevi una buona giornata, dai. Salutoni belli da parte mia. Ciao. Via, ciao Falchina, già ci aggiorniamo per quella faccenda, dai. Appagato. Ok, ciao Anto, alle prossimine, non ti assicuro che dopo entro perché io poi ce ne avevo un po' in TV e poi me ne vado a nanna e domani grande lotta per la sopravvivenza, ma c'è quello di campionamento, non c'è ma poco ieri da fanculo. Va bene, d'accordo, un abbraccio, ci aggiorniamo, comunque stai tranquillo, già non ti abbandono, ogni tanto già mi faccio sentire, poi tu basta dai un colpo di importante, io conosco lo VIP, o più che lo VIP lo segnale, chi tocca qui da voi un colpo va a scendere lo Smith, quindi capisco che ci facciamo due chiacchiere. Va bene, ciao, un abbraccio, buona cena, vai Gigino. E già salutato lo io a Falchetto, dai, gli ho detto che ci aggiornavamo in settimana. A posto, dai, fatti buona carica a Falchetto. E io saluto le belle, dai. Ciao. Ciao, Anto, a presto. E ci siamo fatte le 8, ci siamo fatto due chiacchiere, due ricordi, due cosette. E vediamo un po' di continuare a farci due cosettine ogni tanto, non sempre, perché sennò diventa troppo difficile per me riprendere alla grande, ma ogni tanto quando mi sento già mi faccio due chiacchiere. Per quel lavoro lui. Per quel lavoro io non ho problemi, capito? Sabato quando finisco il giro, se lo vuoi fare, scendo direttamente giù ai punti, tanto rientro presto o rientro tardi, e le facciamo l'altro pezzo, capito? Se non lo vuoi fare al fresco, magari la sera quando rientri, ma sei stanco, quindi lo puoi lasciare anche a sabato. Positivo, dai, lo faccio un'ora, no, a tre, no, tanto devo fare la misura e basta del campo, prendo la misura del campo, ho visto che con la punta del trapano è passato tutto quanto, è passato quello coso di attallato, è passato il muro, giusto da girato, è passato giusto, poi gli metto un po' di coso dall'altra parte, e niente, infatti io affianco a quello lì, adesso gli passo, faccio l'altro foro. Ho messo un secondo a fare il foro, pure faccio una punta mano a mano di trappano. E il passo giusto di quanto è il PLL, un buco così grande si fa. Ed è passato tutto l'altro in pari, PLL, esallato tutto, ma infatti io lo faccio, me lo salvo, se entro qua me lo posso saltare qua, ma non lo faccio già in garage. Ora posso fare pure qua perché posso una volta che è dentro, ma solo che. Niente, me lo porto dentro anche l'altro, dentro faccio il foro e la lunghezza, ne faccio una mattata, me la da palmiglio, una lunga rocca, ne faccio una mattata e faccio quella lì. A mettergli ce l'ho un giunto, ce l'ho due giunti, posso mettere anche un giunto a quel cavo lì che è più corto, sta sopra il tetto, che mi mancano 2 metri, mi mancano, si può immaginare, 2 metri per arrivare a chissà, mi mancano, te lo immaginerci, 2 metri, a 2 metri no, non mi basta, lo sai, sì, claro. E io dico di quel cavo, che ha avuto tutto la via Pascoli, su arrotolato in, in massata, qua per morarsi, perché i garage di via Pascoli ho portato via tutto, c'è qualche cosettina, ma ce l'ho ancora, ma cavi non ce ne sono. Mentre invece qua li ho portati tutti quei cavi sono in massata, bisogna vedere che misura ti serve. E poi sì, se arrivi col mio già pronto, tra l'altro mi pare in una parte c'è già il PL attaccato, perché avevo attaccato il PL dell'antenna e avevo recuperato, dovrebbero essere, quindi era 5 piani, 5 più 5 sono 10, 10 sarà un 18 metri, 20 metri di cavo ci dovrebbero essere. No, maglia ce l'ho io, ce l'ho nuovo nuovo, ma è stato bene, mi ha dato un po' il medium, ma tassa. Ammiraggio Iancla, ce l'ho, non ti preoccupare di ammiraggio un capo. E quello spezzone, ottobre via, che è lungo, mi quello spezzone è lungo, solo che una volta l'ho tagliato, no, l'ho tagliato un po' a lungo e ho fatto giusto, però mi è andato beh, proprio alla grande, quello che è entrato dentro e niente, e mi sta è proprio andato giù dalla grande, io da giù già ne ho poi c'ho anche quello che mi ha fatto, mi sarebbe fatto Salvatore, no, mi sono detto anche a me, ma non no, vale per andare, no, forse no, non me lo ricordo, comunque mi ha fatto una mattata a qualche d'un altro, e ce l'ho, però ce l'ho nuovo, mai adoperato, capito, cla. E mi passo quello nuovo, lo passo giusto e lo porto dentro qua, via, e lo metto il commutatore. Allora già, vabbè. Non c'è problema, ma sto dicendo, se lo vuoi fare al fresco, lo possiamo fare la sera, tanto la sera sono sempre a casa, capito? Anche quando rientri tu, mi hai ancora il telefono, io sto rientrando, hai il carto magari in settimana, che non è che rientri sempre alle 7 di sera, no? No, tanto devo bianchinarmi una cosa, scando un poco per bianchinarmi, questo pure sul travaglio, Claudio, buco, li faccio l'altro foro e sono cappuccio, hai compreso? Li faccio l'altro foro un attimo, tanto lo devo fare, devo triturare questa merenda, capito? La faccio cose, pure un po' di... Tanto mi metto un televisorino da qualche parte, me lo prendo, quando vedo il qualche soldo me lo metto un televisorino da qualche parte e niente, solo che c'è un fresco che è una meraviglia, si chiude la finestra dall'altra parte, però io sono a faccia alla finestra, cioè da polotore sta salendo un'aria fresca, sta entrando, che è una meraviglia, perché me lo metto vicino alla finestra, capito? Perché la bucatura fa entrato il cavo da lì stesso, capito? L'antenna è la giovizzina. E ho controllato la stazione, non ho nulla, non è perfetto, dai. No, col commutatore d'antenna non te la stazione assolutamente, io non ce l'ho. Io ce ne ho 2 commutatori d'antenna accoppiati, dove commuto tutte le radio, soprattutto i baracchini, c'è un'unica antenna che commuta con 4 uscite e commuta 4 baracchini in uscita. Quindi non fanno rientro, non fanno niente, stazionario no. Non te le crea assolutamente o lui, vabbè tranquillo. Va bene, dai, anche io vado a vedere dall'altra parte cosa c'è, se già le 8 e poi niente, vediamo se si esce a prendere un boccata d'aria oppure se si rimane a casa. Ok lui, aggiorniamoci in settimana, ci vediamo, così sistemiamo anche quelle cose lì e poi attendiamo il giorno 16 per fare questa, per andare a questa manifestazione. Ok, è positivo. Oh Claudio, aspetta, prima di chiudere, c'è anche questo qua, c'è questo specie di ecco così suo, però mi pare che sia cosa come te, camera chiusa, mi prova a vedere. Guarda cosa fa tipo camera chiusa. Certo, se parli così, abbassalo appena un pelino, ti aumenta la radio, Ma adesso l'ho abbassato un po', abbassa ancora, guarda, così è abbassato ancora. No, lascialo stare così che va benissimo lui, era grande. Il reverbero è talmente leggero, però ti aumenta moltissimo la modulazione, 5 perfetta. Adesso dico se c'è il coso, no, io l'avevo spento prima, ce l'avevo, la ripeta ce l'avevo spenta abbassata, la regolazione va bene così. Ma io puoi anche aumentare leggermente. Così, guarda, così, va bene così. No, era così, ma è una cosa tipo chiesa, come si chiama, o com'è? Una tipo chiesa, che va benissimo. È perfetta la modulazione. Viene che ci invigio. Questo va benissimo, lui era grande. Sì. E va bene, perché c'è il microfono normale qua, capito? E c'è questa cosa qua che attacchi e cosa. Va bene, dai. Però va bene anche come la prima, comunque staccato, passato la ripeta dell'eco, va bene lo stesso. Sembri sì, particolare. Vedi, tutti mi dite così, vedi. Sì, ma è un moto che ho inventato io, capito? Se non te lo dico io, invece si da quei provare non te la fotti nulla degli altri. Ciao Luca, no, è accettabile comunque lui, dai, va bene. Non è questo referbero così alto, già va bene. Ci si parla piano già, vabbè, come vuoi chiamare il quaterno, sono lui. È positivo, dai. Però c'è anche un'altra cosa, questo, e te lo tocchi, mi lo faccio sentire come aumenta, che aumenta anche la radio. Ok, vai, e vedi come aumenta la radio, vedi qua così. Sì. Qua a fianco ci abbiamo anche il 48, l'abbiamo messo per emergenza, l'abbiamo messo a fianco, hai capito Lucarie? Stavo dicendo, io ho sentito, però non lo so, e dico, avevo il più forte, un macchino modificato, sei tu qua a Sassari. Ho capito, no, Luca, cosa è successo? Sempre tu. sì che ho 4 watti e sono con 4 watti adesso, se io parlo con questo il negozio lo sai come entro, come un corso, invece quello là non entra, il discorso capito, quello è un macchino più normale, non tocca a nulla, ma questo entra anche così, capito? Ma non c'è quello là, non c'è problema, quello non c'è negozio aperto, c'è quello, quello non c'è negozio aperto, dopo le 8, le 9, io ne so, le 8 e un quarto, poi c'era anche quello lì, capito? Però durante la giornata non ti privi di poter chiacchierare, usi quello, quello che hai fatto, adesso più quando ci vediamo le metti il microfono a tavolo, e usi quello lì, mi arrivi benissimo, 6, 8, 9, con quello là, con questo sì 9 e 20, e con quello là sì leggermente più alto di 9, 9 e 5, e vai alla grande, non c'è nessun problema. KK, andato sia per scherzo. Luca non risponde più, capito IGG? La cosa fatta già ricetta, beh, a me me l'hanno fatta le figlie, ce l'ho quella specie di tesserino per la ricetta per pescare in mare. Non so se, so che la stanno preparando Luca, ma non so se l'ha ultimata, se l'ha fatta, non lo so. Luca è? Perché un brigatore ci vuole quella, anche per pescare con la canna in mare ci vuole questa cosa, questa ricetta, una pizza che falchetto se l'ha fatta, io lo stavo facendo miei figli e fatta pure a me, siete fatta pure a me e me l'hanno fatta, fatto questo pacificato, tesseri. Che a me non so che ti buccia, l'avevo cercata, sai che stavo guardando dove l'ho messa, lo sai, me l'hanno fatta, me l'hanno data, devo vedere pure dove ce l'ho messa. Sicuramente da qualche parte l'avrei appoggiata, non ci sono problemi. Va bene, dai, io ti saluto, un abbraccio grande, Gigi, ci aggiorniamo in settimana e così verifichiamo tutte queste cosette, io vado a mangiare un boccone e poi decido se uscire a fare una passeggiata. Stammi bene, saluti a casa. Comunque, per quanto riguarda quella panorama, ci mettiamo d'accordo poi, appena ci vediamo. Tu intanto sonda un pochino con Giovannino, con Massimiliano, vedete un po' voi, con Salvatore, come poter organizzare i gruppi e così ci mettiamo d'accordo e ci vediamo in un punto e partiamo tutti da lì. E così andiamo tutti assieme, piano piano, ci prendiamo un caffè da qualche parte, ma stiamo andando così a Bixo, ma adesso sabato, no, sabato dovrebbe essere aperto a Giaffe, sicuramente, sì. Ma è aperto a Giaffe, fanno le sigarette tutte le mattine, a volte quando me lo vedo invece c'è un medicente, quando faccio io mezz'ora vado, vediamo il caffè, sono in fretta, tiro dritto, e vado, mi fermo a Giaffe, intanto devo entrare a costruire, capito? Perciò già è aperto sabato, vai tranquillo. Va bene, dai, ti saluto, chiudo, passo in QRT, ciao a Luca, ciao a quelli che stiamo ascoltando, e ci sentiamo, ciao. Ciao.